Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il multimiliardario mi vuole nella sua squadra. Si affeziona a me. Mi chiama, parliamo, discutiamo, costruiamo. Mi insegna ogni giorno come il mentore che ogni ragazzo sogna di avere. E inizia il viaggio. Brasile, India, New York, San Francisco. In pochi mesi faccio più miglia di George Clooney in Up in the Air. Mi chiamo Niccolò, vivo a Roma, ho 28 anni e di lavoro mi diverto a viaggiare per il mondo e a conoscere ragazzi come me che inventano prodotti straordinari per internet e per il mondo dell'informatica avanzata. Chi disse preferisco avere fortuna che talento, percepì l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no e allora si perde. E allora si perde. Questo è l'inizio di un film di Woody Allen, forse uno dei più riusciti, ma no, dei più riusciti non lo so, di quelli che sicuramente mi sono piaciuti di più degli ultimi Woody Allen. Si chiama Match Point e inizia esattamente con questo piccolo monologo sul quanto la fortuna sia fondamentale nella vita di ognuno di noi, ma soprattutto su quanto abbiamo paura di ammettere questa cosa, perché la fortuna è una delle poche cose che è impossibile controllare, no? Quindi chi ha la mania del controllo e chi cerca di avere tutto sotto mano, tutto pronto, ed essere pronto in modo da poter gestire tutte le cose che gli capitano, la fortuna chiaramente fa paura e spaventa. Però è vero anche che ci sono le persone più oneste che hanno avuto successo, quelli che hanno ottenuto grandi risultati nel proprio lavoro, nella vita. Ecco, quelle più oneste lo ammettono, che per fare qualcosa di importante ci vuole sempre molta molta fortuna. Sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, buongiorno a tutti, voi siete qui, io sono Matteo Caccia, ma soprattutto la storia di oggi è la storia di Niccolò. Niccolò è un ragazzo fortunato da questo punto di vista, lo è immagino perché da quello che si capisce ha una situazione di partenza più o meno agiata e più o meno fortunata, ma è fortunato perché gli succede una cosa che è veramente ai limiti del film di Woody Allen, ed è una cosa in cui la fortuna c'entra molto. Quando si parla di fortuna non si intende mai togliere del merito alla persona che sta vivendo quella situazione e sta avendo successo in quell'occasione lì, e tantomeno lo facciamo per Niccolò, però avere la lucidità per capire quanto la fortuna è stata importante nella nostra vita non è una cosa semplice. Vi chiedo di farlo esattamente adesso alle 16:10 di un lunedì qualunque, 21 gennaio 2013. Fermatevi 5 secondi e cercate di ricordare o di capire, se non l'avete mai fatto, di focalizzare il momento in cui qualcosa è andato bene ed è stata veramente solo una questione di fortuna. 349-238-6666, abbiamo un profilo Facebook, voi siete qui Radio 24, l'abbiamo scritto anche su Twitter, sul nostro profilo Twitter che è voi siete qui R24, l'hashtag è voi siete qui, come al solito, se avete un profilo Twitter avete voglia di partecipare. Ha già scritto qualcuno sul profilo Facebook, mi scrive Tommaso che dice, anzi no, credo che sia Tommaso, non è me sola. Frontiera Polonia-Deder, anno 1977. Pochi soldi, quasi niente, giusto per tornare a casa e non morire di fame. Macchina rotta in terra di nessuno, tra le due frontiere. Un francese ci trova e ci traina per il corridoio di Berlino, 120 km a 100-120 km all'ora, con una corda che un impietosito meccanico Deder ci aveva regalato, fino a Berlino Ovest. Questa è la prima avventura in cui c'entra la fortuna che mi è venuta in mente. Provate però ad immaginare anche la volta in cui avete casualmente incontrato qualcuno che è stato utile o fondamentale nella vostra vita. Dove vi trovavate? Come è accaduto? Quale casualità ha fatto in modo che lo incontraste? 349-238-6666 oppure se avete perso qualcosa. Spesso ci si accorge della fortuna quando viene insieme a qualcosa che sembra sfortunato, cioè perdiamo qualcosa, c'è un attimo di scorno, c'è un attimo di immalinconimento e poi invece quella roba lì, pum, fa venire fuori qualcos'altro che a quel punto è chiaramente solo una questione di fortuna.

No. No, ho fatto la domanda. L'ho pestata proprio alla fine. Nicolò, grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Ciao, ciao. Buona giornata. Voi siete qui. Ha gli occhi scuri e le sopracciglia molto scure, Nicolò. Si vede giusto questo nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24. Si vede questo e si vede un altro piccolo dettaglio. Ha uno smartphone davanti alla bocca e il display dello smartphone è una fotografia. E c'è la bocca di un tizio con un sigaro che assomiglia veramente a un sigaro texano. Fortuna. Sostantivo femminile. Presunta causa degli eventi e delle circostanze non spiegabili razionalmente. Immaginata mitologicamente come una dea bendata che distribuisce indiscriminatamente il bene o il male. Teologicamente come un'intelligenza angelica, general ministra e duce dei beni mondani, Dante. Umanisticamente, come il complesso di circostanze favorevoli che, opportunamente sfruttato, può cooperare al trionfo dell'intelligenza umana. Complesso di circostanze conformi o addirittura superiori ai desideri. Sorte favorevole. Etimo dal latino fortuna, derivato di fors fortis, caso, sorte. Data, secolo XIII. Le 16.36, questa è Radio 24, si parla di fortuna oggi, ma non solo. In questa ultima parte del programma voglio raccontarvi di una piccola operazione, anzi mica tanto piccola, di un'operazione editorial radiofonica che Radio 24 ha sviluppato quest'estate insieme alla Mondadori, esattamente al giallo Mondadori. Cioè Raffaella Calandra è nata in onda per tutti i weekend, per tutte le domeniche, con un programma che si chiamava Giallo 24. Ve lo raccontiamo perché in parte è simile a Voi siete qui, perché Raffaella chiedeva, insieme al direttore del giallo Mondadori, di inviare dei racconti gialli al programma. I racconti sarebbero stati letti e poi sarebbero stati pubblicati in un'antologia, in una raccolta di racconti gialli estivi, insomma, un po' c'è sempre questa idea del giallo dell'estate, no? Ogni estate c'è qualcosa che va storto e ci si gira intorno tutta l'estate. Il giallo Mondadori però è in realtà una collana storica della Mondadori, al punto che abbiamo scoperto poco prima di andare in onda che il romanzo giallo, cioè il genere del romanzo giallo, deriva da lì, dal colore giallo della copertina dei gialli Mondadori. Cioè, al di fuori di questo paese, il romanzo giallo non esiste se non sotto, che so io, crime fiction, oppure detective story, o noir, thriller, eccetera, eccetera. Se vai in Inghilterra e dici, avete un romanzo, un yellow novel? Do you have a yellow novel, please? Non vi danno nulla se non un calcio. Quindi, tutto per dirvi che è uscito da pochi giorni la raccolta di racconti che si chiama Giallo 24, il mistero è in onda, e lo trovate non in libreria ma in edicola. Costa poco, come faccio a dire? Eccolo qua, 5,90 euro. Sono una decina di racconti che sono stati raccolti qui in onda, più un piccolo extra verso la fine del libro. Vi voglio leggere uno di questi racconti, che erano in due versioni. C'era una versione lunga, più o meno una decina di pagine, e una breve per essere letto in onda, lo facevano gli speaker quest'estate nel programma di Raffaella. Voglio leggervi un racconto che ho scelto semplicemente perché era quello che mi piaceva di più. Si intitola Donna con viso di pantera, l'autore è Stefano Di Marino. La pioggia aveva lasciato spazio a una nebbia umida, grigia, che illividiva i canali, le calli, i campielli e i ponti che li univano. Venezia si era trasformata in un labirinto in cui la gente sembrava essere fuggita via, risucchiata da un maleficio. Valeria scese la scala udendo i suoi passi sulla pietra, il respiro pesante. Davvero avrebbe saputo la verità? L'atelier di Sauro Valenti, l'autore del dipinto che da settimane la tormentava, era, secondo le indicazioni, a pochi metri, nel sottoportico in ombra. Finalmente avrebbe saputo chi era la donna con viso di pantera. Richiuse l'ombrello, avanzò sotto la volta umida. Il canale scorreva gorgogliando. Valeria si trovò di fronte a una porta di legno con il vetro sporco. Il cuore saltò un battito. Eccolo lì, il dipinto che aveva cercato inutilmente, esposto sopra un cavalletto come una sfida. Non si stupì di trovare la porta appena socchiusa. entrò in un ambiente polveroso, dominato da un'aria pesante che sapeva di vecchi rancori, di brutti ricordi pronti a riemergere con crudeltà. Entrò lasciando che il battente cigolasse sui cardini. «Sauro?» chiamò, ma non ci fu risposta. Ancora un passo, come ipnotizzata dalla figura femminile con il viso di un felino predatore. «Non c'è nessuno», disse una voce in un angolo. «Sauro non esiste, Valeria. L'hai dipinto tu, quel quadro, per dimenticare». Lei si voltò di scatto, le mani contratte. Guido, suo marito, era uscito dal nulla. «Quando sei venuta da me, volevi scordare tutto. L'assassinio di tuo marito, te stessa. Io ti ho aiutata con l'ipnosi. Ho fatto di te un'altra. Mia moglie, la donna che amo. Ho fatto ogni cosa per proteggerti da quest'incubo. Lascia che ti porti via, che cancelli ancora una volta i ricordi della tua mente. Ti amo, lo sai». «No», mormorò Valeria, «rimane ancora una cosa da fare». Guido le rivolse uno sguardo sgomento. Lei sfoderò la lama dal manico dell'ombrello. Nessuno doveva sapere. «You get so lucky, it makes you act quite mean. You hear a lot of voices, so it's hard to sip your tea, yeah. What was my advice to you at each unruly path? Did I say I was afraid for you? I thought they would kick your ass, honey. Gone, gone, the messenger's gone, the good lady and the doctor's son. So don't treat your body this way. Next page». Giallo 24, il mistero in onda. Vi ho appena letto un piccolo racconto, lo trovate in edicola fino a venerdì. È un progetto Radio 24 e Gialli Mondadori, grazie a Raffaella Calandra. Pensa invece che fortuna che ha avuto Grazigi Naim, se non leggo male, che ci ha scritto un Twitter a Voi Siete Qui a R24 dicendo: «Ciao, oggi ho scoperto il vostro programma da Merida, Venezuela, in sintonia», che non so cosa voglia dire, cioè in sintonia con... ah, sintonizza. «Che bello il tuo programma. Abbiamo scoperto che Gazigi è atleta di pelota basca e ci segue dal Venezuela. Tu pensa che fortuna. Il messaggio che vince oggi però è: il primo colpo di fortuna è stato nascere qui in Italia e non 2000 km più a sud o a est. Grazie a tutti, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Fabio Cantadori e grazie a Margherita Ina. La storia di oggi era di Nicolò e anche lui è un punto rosso su una mappa». Mi chiamo Cristina, la storia di domani è la mia e parla di quando il caso ti sconvolge la vita. Questa è la mia storia e io sono qui.